capace di aver sbagliato, quando tutto è ormai perduto, forse perché non hai lottato, ed ora tu sei fottuto, ti accorgi che tu non hai colpa, perché in fondo è solo sfortuna di quella che ti salta addosso e che non ti lascia più mai più. Mai più. Tutto c'è bello che hai, non lasciate andare, puoi lottare sempre contro il male, le portate a partecipare, ma che sono il vincitore. Non puoi più pensare, devi andare avanti da campione, non pensare che sei il migliore, pensando tanto a dare avanti.